Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, la Commissione, come sapete, questi sono giorni della conclusione delle audizioni per definire la squadra di governo dell'Europa, e come si immaginava è arrivata una sorta di cartellino giallo per l'ungherese Tibor Navracsics. L'ungherese era stato, diciamo, messo in dubbio non tanto per le sue capacità in generale, ma per il ruolo assunto, l'atteggiamento assunto dal governo di Budapest nei confronti dei temi sensibili come quello della libertà di stampa e di espressione. Insomma, la Commissione, in questo caso la Commissione Cultura ed Educazione, presieduta dall'europarlamentare italiana Silvia Costa, ha di fatto congelato, cioè ha approvato il fatto che lui possa essere un commissario, ma ha chiesto di cambiare il ruolo. Allora, riepilogo da Bruxelles a cura di Beda Romano. È una partita ancora molto incerta quella che si sta giocando sul futuro della Commissione Juncker. Ieri un candidato commissario, l'ungherese Tibor Navracsics, è stato bocciato. Ci sarà probabilmente una revisione delle sue competenze. Chiarimenti scritti sono stati richiesti al francese Pierre Moscovici e alla ceca Vera Jukova. Il britannico Jonathan Hill è stato convocato per una seconda audizione. Tensioni sono scoppiate tra socialisti e popolari. I due partiti tengono in ostaggio l'esponente dell'altro campo in attesa di trovare un accordo generale. Nelle prossime ore il presidente eletto della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, avrà incontri con i leader parlamentari per capire i margini di compromesso con il Parlamento. Circola voce di una revisione dei portafogli. È possibile anche un vero e proprio rimpasto, anche se sia la Commissione che il Parlamento vogliono evitare questa strada politicamente complicata. Il calendario prevede che la Commissione europea venga sottoposta a un voto di fiducia il 22 ottobre. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. In tema di commissari si è espresso anche il commissario agli affari economici Jyrki Katainen. Ha risposto alla domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se avesse un messaggio da dare all'Italia prima dell'invio a Bruxelles della legge di bilancio 2015. Katainen ha detto: non è nulla da dire sul rinvio degli obiettivi di bilancio da parte di Roma, ha però rimarcato che l'Italia ha dato molta enfasi alle sue riforme. E ora parliamo di cambiamenti climatici. Sono da anni un tema che è da anni al centro della discussione in Europa. Dopo il summit convocato all'ONU il mese scorso, Euronet Plus, la rete europea di radio di cui facciamo parte, ha chiesto un parere sull'esito del vertice ad alcuni parlamentari europei. È stata una giornata eccezionale, disse Ban Ki-moon a fine vertice. Mai prima d'ora così tanti leader si erano riuniti per impegnarsi nell'azione contro il cambiamento climatico. Vero, ma in parte, perché di tanti leader ne mancavano due, e piuttosto importanti, quelli di India e Cina, ed anche perché per ora siamo agli annunci. Gli impegni, se arriveranno, saranno per il prossimo anno alla conferenza di Parigi. Ed è proprio quello che sottolinea l'europarlamentare della sinistra europea Teresa Rodriguez Rubio. Quello che vedo, dice, è la mancanza di un compromesso stabile, obbligatorio, che porti a risultati. Il risultato più importante è che il clima è tornato nell'agenda internazionale, ribatte Isaac Valero Ladron, portavoce della Commissione europea per azione clima. E sulla stessa linea c'è l'europarlamentare Claude Turm, che introduce il tema da sempre più amato dai temporeggiatori: le emissioni dei paesi in via di sviluppo. I cambiamenti climatici, dice, sono stati provocati da noi europei, dagli americani, dai giapponesi. Cosa può dire un primo ministro indiano o del Bangladesh? Perché dovrebbe muoversi se noi non ci muoviamo? La risposta di Turm, che milita tra i verdi europei, è che la Cina sarà tra i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici e sottintende quindi capirà. Parole cui risponde Ian Duncan, eurodeputato conservatore. Se non partiremo tutti dallo stesso piano, beh, sarà battaglia. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto. Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.